Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 8:08 primi e 59 secondi e questa mattina sono io solo e non Alessandro Milan qui ad Attenti a noi due, perché Alessandro Milan insieme agli altri colleghi della redazione giornalistica scioperano, come avete sentito dal comunicato nell'edizione del giornale radio, ristretta appunto per lo sciopero. Ieri hanno scioperato i colleghi del quotidiano, del gruppo Sole 24 Ore, che oggi non trovate in edicola. Oggi scioperano i colleghi della redazione giornalistica dell'agenzia Radio Cor e di Radio 24. Perché io sono qui? Perché non sono un giornalista subordinato, un lavoratore dipendente. Come sapete, il diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori subordinati secondo l'articolo 40 della legge 300, lo statuto dei lavoratori. Io sono un professionista a contratto esterno, quindi se io non lavorassi incorrerei in una inadempienza contrattuale. Ci tengo a dire però che pur per me, che io non condivido quasi mai le motivazioni degli scioperi, questa volta condivido integralmente le ragioni che avete sentito solo sintetizzate nel comunicato del comitato di redazione a nome di tutti i colleghi, e ci tengo a dire anche che la gravità della situazione, che colpisce anni e anni di bilancio consecutivo gravati da ipotesi di falso del gruppo editoriale Sole 24 Ore, con ipotesi di prassi illegittime, molto serie, dalla metodologia seguita nella quotazione anni fa all'adozione di criteri contabili discutibili per alcuni asset dell'azienda, al aver comprato per alzare il prezzo di quotazione asset a prezzi sopravvalutati, rivelatisi poi pessime scelte con abbattimenti di valore molto discutibili, aver comprato televisioni che si sono rivelate poi un disastro, aver ipotizzato quote digitali, vedremo, con società in cui ci sono le impronte digitali, forse dello stesso editoriale del Sole all'estero. Sono tutta una serie di condotte che gettano una luce purtroppo molto preoccupante intanto su tutti i presidenti di Confindustria avvicendatisi in questi anni, oltre che sui vertici aziendali di questa società. Ci sono indagini aperte dalla procura, da parte della procura e della Consob. La perdita di credibilità non solo dei colleghi giornalisti, che molto più di me in questi anni hanno svolto un lavoro molto professionale per la credibilità di questo gruppo, è seria, ma è la perdita di credibilità dell'intero sistema apicale di Confindustria la questione di cui stiamo parlando. Giornalisti del Sole 24 Ore, che professionalmente sono abilissimi a leggere i bilanci, hanno in questi anni e anche in questi giorni redatto tutta una serie di domande che sono a vostra disposizione sui tantissimi particolari della gestione di questo gruppo, che appaiono totalmente non credibili. Vedremo se dopo questi mesi in cui è emersa ed esplosa la gravità di queste condotte, le risposte saranno adeguate. Per serietà, c'è anche un elementare dovere di rispondere agli azionisti retail che comprarono il titolo e si sono visti sfumare totalmente il valore nelle mani. Per gente come me non è facile criticare chi ha fregato gli azionisti e gli obbligazionisti bancari, essendo poi soggetto alla risposta "taci tu, perché nel tuo gruppo vi siete comportati in una maniera non del tutto diversa". Quindi io lo dico con tutta la serietà del caso, che sono solidale con i colleghi, sono qui in diretta e non intendo niente. Sapete che non si può sostituire chi sciopera, quindi io non sto sostituendo Alessandro Milan, siamo però in un programma in co-conduzione. Ci tenevo a dire quello che penso però della serietà di chi ha ragione a protestare per le condizioni del Sole 24 Ore. Allora andiamo alla giornata di oggi. In questo martedì 15 di novembre, Sant'Alberto Magno. Quindi un augurio a chi si chiama Sant'Alberto. Sant'Alberto Magno è un grande teologo della storia della Chiesa, uno dei maggiori del 1200, maestro di teologia a Parigi e maestro soprattutto di San Tommaso d'Aquino. Sono i personaggi centrali della teologia cristiana del XIII secolo, che riconducono la teoria dell'anima, per così dire, dalle tenebre, dal dubbio in cui non l'aveva fatto uscire Sant'Agostino con la sua teoria del peccato, invece la riconciliazione con la ragione, con Aristotele, con la filosofia e con la logica. Tra gli altri auguri anche a chi si chiama Eugenio, Felice, oggi è San Felice da Nola, Flaviano Macuto. Avete presente il palazzo di San Macuto a Roma, in cui ci sono le commissioni parlamentari d'inchiesta? Ecco, e oggi è San Macuto. Cosa è accaduto nella storia da ricordare nel giorno 15 novembre alle nostre spalle? Nel 1914, il 15 novembre, nasceva Il Popolo d'Italia, quotidiano socialista all'inizio, direttore da chi poi socialista non fu più, cioè Benito Mussolini. Nel 1933, un 21enne di successo, il successo sarebbe venuto negli anni a venire, però a 21 anni Giulio Einaudi fonda a Torino la sua omonima casa editrice, la fonda nello stesso palazzo in cui un certo signore che si chiamava Antonio Gramsci aveva fondato e diretto un giornale che ha segnato la storia della sinistra italiana, che si chiamava L'Ordine Nuovo. E nel 1971 nasce il primo microprocessore, oggi il microprocessore 4004 della Intel, che pensate aveva una potenza di calcolo pari a quella quattro anni prima di un computer che avrebbe implicato una superficie di 200 metri quadrati occupati. La cosa che nessuno ricorda è che quel primo microprocessore fu progettato e ideato da un italiano che si chiamava Federico Faggin, e quindi, come si vede, noi siamo molto molto molto importanti, più di quanto si immagini, in questa storia dell'informatica. Traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta 24 mattino. Attenti a noi due. Ed eccomi tornato senza Alessandro Milan, in sciopero, come sono in sciopero i giornalisti della testata di Radio 24, della testata di informazione Radio 24, come sono in sciopero oggi i giornalisti di Radio Core, in sciopero subito ieri e contestualmente all'Assemblea del Sole i giornalisti del quotidiano Sole 24 Ore, per la gravità, per la serie molto lunga e molto seria di interrogativi irrisolte che hanno portato, dopo perdite per decine di milioni, a bruciare l'intera cassa raccolta dagli azionisti che hanno creduto in questo titolo anni fa all'atto della quotazione, dopo anni e anni di bilanci in perdita, perdite sempre più gravi affidate all'emersione di un amministratore delegato sostituito in pochi mesi, evidentemente perché per una serie di ragioni, la redazione ha l'idea che sia stato troppo serio, per così dire, nel far emergere tutto questo. Comunque, in attesa che si conosca il nuovo amministratore delegato, che però sarà Franco Moscetti, l'ex manager di Amplifon, lo sappiamo già, una lista di pesanti interrogativi che prima ho ricordato porta oggi a scioperare. Io sono qua come professionista esterno con un contratto a tempo di prestazione professionale, quindi il diritto di sciopero non rientra, ohimè, nel mio pacchetto dei diritti. Per una volta sono completamente a ragione per chi sciopera, e speriamo che presto questo gruppo sappia dare risposte concrete alla gravità degli interrogativi che gravano sulla serietà della conduzione del suo bilancio. Allora, vi dico subito, se volete intervenire, ci sono due temi oggi con i nostri ospiti, e sono due sindaci oggi, perché noi cominceremo con il sindaco di Bergamo ponendoci il seguente interrogativo: ma questa novità dei tabaccai che denunciano i sindaci per le loro ordinanze in cui si pongono dei vincoli più stretti al gioco d'azzardo, alle slot machine, hanno ragione i gestori e i tabaccai a protestare, perché dicono la legge nazionale non prevede questa cosa, anzi i tabacchi hanno ragione in una cosa, perché in realtà la legge nazionale e anche l'impegno al riordino nazionale per il 2017 è quello di aumentare di diverse migliaia, di circa 5.000 le attuali sale specializzate di videogioco, farle passare da 5.000 fino a 10.000, nel frattempo riducendo, questo è vero, le slot machine nelle tabaccherie. Però parliamoci chiaro, lo Stato da una parte promette al settore di aumentare il gioco. Dall'altra, i sindaci intervengono e diminuiscono la possibilità in termini di aumento degli spazi tra tabaccheria e tabaccheria, distanze di sicurezza dai luoghi delicati come le scuole e così via. I tabaccai insorgono e li denunciano adesso. Chi ha ragione? Voi state con i tabaccai o state con i sindaci? Poi avremo poi come ospite anche il sindaco di Padova, anzi il sindaco che è stato dimissionato a Padova, Bitonci, sindaco della Lega, e gli chiederemo come, se è vero, se ha ragione chi sostiene che in realtà lui è travolto a dimettersi di fronte al notaio e quindi a determinare poi il fatto che ci saranno elezioni anticipate, sono stati i consiglieri di Forza Italia, a larga parte della sua maggioranza, accusandolo di fare di testa sua, di non coinvolgerli su alcuna decisione. Molti hanno scritto però: questa è la crisi del centrodestra. C'era in quel giorno una manifestazione con Stefano Parisi che, come sapete, ha detto noi non stiamo con la Lega, siamo l'altra faccia del centrodestra. Berlusconi vorrebbe tenere i pezzi insieme, ma noi siamo un altro pezzo. E quindi chi ha collegato questa crisi non a vicende di Padova, non al comportamento del sindaco, alle scelte contestabili o meno che siano di Bitonci, bensì al fatto che il centrodestra ha iniziato a perdere i pezzi, a esplodere, cominciando proprio dalla casa di uno dei sindaci più esposti. Quindi se volete diteci la vostra chiamando e diteci se siete per così dire per un centrodestra d'assalto, quello di Bitonci e di Salvini, o se pensate invece che l'ala Parisi, il tentativo di dire siamo moderati, popolari e non populisti, sia la destra verso la quale avete speranze per riequilibrare l'offerta politica. 800 24 00 24. Ma cominciamo subito con il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno Giannino, buongiorno. Allora, la vicenda, la ricordo brevissimamente, è quella di uno degli esposti denuncia depositato alla procura presso la Corte dei Conti della Lombardia contro di lei, contro il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, per questa ordinanza che voi avete emanato il 13 giugno per contrastare i fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo. E riguarda le slot machine, le new slot machine, le sale giochi tradizionali, le videolotteri, le sale scommesse sportive. Quindi voi... l'intera filiera riguarda, non solo le slot delle tabaccherie. Prescrive, tra le altre cose, e poi arrivo subito alla domanda, una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, chiese, scuole, ospedali, obbliga le sale a chiudere, quindi ci sono anche orari di chiusura per non far giocare dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Sono diverse centinaia i comuni in Italia che adottano cose di questo genere, ma i tabaccai insorgono e dicono: voi siete responsabili di una perdita, di un danno erariale. E hanno fatto anche il conto di centinaia e centinaia di milioni, perché dicono nel 2015 a Bergamo sono state giocate 284,7 milioni di euro, l'erario ci ha preso 25,5 milioni e quindi secondo la vostra ordinanza voi producete un danno che su base nazionale è di 2,5 miliardi di euro l'anno. I tabaccai, a dire la verità, un po' di ragione ce l'hanno da un punto di vista, secondo me. Io non entro nel merito della loro impugnativa nei confronti della vostra ordinanza. La questione è che c'è una contraddizione tra lo Stato, che a livello nazionale promette un aumento di migliaia di sale specializzate, migliaia, cioè passare da 5.000 a 10.000, perché anche nel libro bianco dei monopoli è ribadita questa cosa, sia pur in presenza di una forte riduzione delle slot machine delle tabaccherie, e dall'altra, mentre a livello centrale gli promette questo, dall'altra poi nelle autonomie i sindaci come lei intervengono. Allora, primo, cosa pensa di questa impugnativa e del danno che procurereste, e secondo, c'è una contraddizione o no tra quello che promette lo Stato centrale e quello che fate voi? Partiamo dall'impugnativa, dall'esposto alla Corte dei Conti. I tabaccai dicono: a Bergamo si sono ridotte le giocate del 27%, sostengono, quindi rispetto ai 284 milioni di euro giocati l'anno scorso se ne sono giocati in proporzione 76 milioni in meno. Siccome la quota che va allo Stato di ciò che viene giocato è il 10%, calcolano una perdita per lo Stato di 7,6 milioni e dicono: caro sindaco, questi soldi ce li devi mettere tu, rispondendo col tuo patrimonio personale. Allora, intanto io penso, l'ho detto ieri con chiarezza, che sia un tentativo di intimidire i sindaci, perché questa cosa del danno erariale non sta né in cielo né in terra. Osservo però che se... lo Stato avrebbe perso 7 milioni, cioè il 10% delle giocate, se i 76 milioni che non sono stati giocati sono andati nell'economia reale, altro che 7 milioni sono andati allo Stato tra imposte dirette e indirette. Quindi lo Stato in ogni caso ci ha guadagnato, ma soprattutto se è vero che il calo è stato così netto, ci ha guadagnato la salute pubblica. La ratio dell'intervento dei sindaci è quella di ridurre il danno enorme che il gioco d'azzardo così diffuso, ubiquo, capillare sta provocando nelle nostre comunità. È vero che lo Stato è in profonda contraddizione, perché lo Stato è così all'origine di questo fenomeno. Ricordo solo ai nostri ascoltatori, perché lei lo sa, che il gioco legale, per così dire, in Italia, e quindi tutto dovuto ai successivi interventi negli anni dello Stato che ha legalizzato settori crescenti per sottrarli alla malavita, per carità, agli interessi criminali, ma via via con aliquote più basse per invogliare la gente a giocare d'azzardo ma in forma legale, insomma, 88,2 miliardi di euro nel 2015, cari ascoltatori, quindi le sole slot e le videolotterie sono quasi 50 miliardi nel 2015, al netto delle puntate che poi vanno in vincite, i soldi che comunque restano a piscare sono 17 miliardi, sono 30 milioni gli italiani che giocano almeno una volta l'anno, il che significa che se uno fa la statistica dei polli, però significa che in media perdono 570 euro l'anno, ecco questo per darvi un'idea. Queste sono le dimensioni, noi abbiamo documentato ancora meglio quello che succede a Bergamo, perché poi molto spesso i decreti, le ordinanze dei sindaci sono state impugnate perché non erano sufficientemente motivati dal punto di vista anche dei dati. Abbiamo documentato come a Bergamo nel 2015 si siano giocati pro capite, quindi compresi i neonati e i centenari, 2.536 euro. Fate il conto quanto può valere questa cosa per una famiglia media di 4 persone. E questa cosa, che è molto al di sopra delle medie provinciali, lombarde, nazionali, come mai, secondo lei? È dovuto ad una presenza, ad una distribuzione particolarmente estesa e capillare delle occasioni di gioco. È questo che noi contestiamo. Io non sono assolutamente contro il gioco legale, ci mancherebbe. Penso che però vada fortemente concentrato, si è esagerato con l'offerta, si può giocare ovunque, il gioco è alla portata di chiunque, delle persone anche più fragili, dei giovani. Abbiamo documentato quanti giovani minorenni che non potrebbero giocare secondo la legge invece giocano e sono costantemente esposti al gioco, tra l'altro con una correlazione chiarissima tra famiglie in cui sono presenti dei giocatori patologici e giovani che vengono introdotti all'azzardo. Allora, il tentativo di mettere un argine a questa cosa passa da quella che abbiamo chiamato un po' l'interruzione della macchina del gioco, cioè proprio le forme di gioco industriale sono fondate sulla compulsività, sulla velocità, sui ritmi, sulle altissime frequenze, e porre dei break durante la giornata è un primo passo per rendere la scelta di gioco più consapevole e non invece indotta da una dipendenza. Io non so se è vero quello che dicono i tabaccai, perché noi dati invece non ne abbiamo, quindi mi sembrerebbe quasi fin troppo essere riuscito in pochi mesi a ridurre del 27% il gioco, ma se così fosse sarebbe un ottimo risultato. Allora, a rilevare la contraddizione della posizione pubblica tra Stato centrale, che anche in legge di bilancio, lo ripeto, si attende un aumento delle entrate e delle giocate complessive d'azzardo, grazie finalmente, pare, nel 2017 all'attuazione del riordino generale del settore che era stato promesso, pensate, nel 2012 dal governo Monti e che da allora di anno in anno viene rinviata, e la promessa però, ripeto, è di alzare di molte migliaia il numero delle sale specializzate. È anche vero che il presidente Renzi ha promesso che avrebbe tolto le slot machine dai bar e dalle tabaccherie. Io sono curioso di aspettare la traduzione di questa promessa. Anch'io, io volevo semplicemente dire che sul Corriere della Sera, che era ascoltato, le trovate oggi a pagina 32 un articolo di Sergio Rizzo, l'udopatia, quel decreto svanito tra promesse e ipocrisie, proprio sul paradosso che dicevo prima, in cui si sottolinea che alla fine però i sindaci si trovano in prima linea da soli, viene proprio citato il sindaco di Bergamo, dice e scrive Sergio Rizzo, ne sa qualcosa il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che per aver vietato l'azzardo in alcune fasce orarie deve fronteggiare ora un ricorso al TAR di società libertà del gruppo Lottomatica, sorretto dal parere di un esperto qual è Claudio Barbanelli, così esperto da meritarsi un posto nel comitato scientifico incaricato di sovrintendere uno studio sulla ludopatia commissionato proprio dall'Istituto Superiore della Sanità, cioè dallo Stato. Come vedete, le contraddizioni pubbliche ci sono, per così dire, e sono forti. E posso chiederle, Sindaco, ancora solo di rimanere due minuti con noi, ascoltiamo due ascoltatori per vedere che quesiti e che osservazioni fanno. Pierluigi, che ci chiama da Latina. Pierluigi, prego. Ciao, buongiorno. Sì. Io volevo dire che la ludopatia non esiste, perché io al massimo mi gioco dei soldi e divento povero. E io povero ci sono nato, per me cosa volete fare che ho già questa la conseguenza di questa malattia in me? Mi date dei soldi per arricchirmi? E poi la completa e totale libertà di poter spendere i miei soldi, che sono fatti apposta per risolvere e soddisfare le mie esigenze, le mie necessità, come meglio credo. Allora, cioè Pierluigi dice: piena libertà, no allo stato paternalista, chi si vuole distruggere o diventa dipendente, fatti suoi. Sentiamo Enrico da Firenze. Enrico. Buongiorno, senta, intanto la ludopatia è una cosa molto seria e ha rovinato famiglie intere, quindi è una cosa che non bisogna sottovalutarla né ironizzarla. In secondo luogo, voglio far notare questo, che esiste, se un sindaco limita il gioco, c'è il TAR e basta. Andare alla Corte dei Conti e chiedere i danni è un killeraggio. Infatti il sindaco, ha sentito Gori, intende che sia un'intimidazione, come dire, così ci pensate bene perché rispondete coi soldi. L'avvocato è infondato su ogni profilo, è un'intimidazione. È come se io, scusi, dico, limito il traffico in un'area pedonale e ti faccio ricorso alla Corte dei Conti perché consumo meno benzina e conseguentemente c'è meno imposte. È un'intimidazione vergognosa, tipica, e il problema qual è ora? Che dietro il gioco d'azzardo, sono miliardi di euro, e dove c'è miliardi di euro si sa benissimo che interessi ci sono. Quindi è una vergogna, io ringrazio i sindaci eroi che si battono contro questo schifo. Allora, Enrico, No, è chiarissimo, Enrico, lei sostiene intanto che la ludopatia sia un grave problema esteso sociale, e secondo, sta con i sindaci e non con lo Stato centrale, perché lei dice gli interessi. Beh, sì, ci sono centinaia e centinaia di imprese specializzate nella gestione, oltre che nella produzione e distribuzione delle macchine, poi nella gestione delle sale, nella manutenzione dei servizi. Ripeto, è stato lo Stato che negli anni ha fatto questa scelta, e l'ha fatta in nome della legalità. Ha sempre giustificato così il fatto che, estendendo nel tempo i tipi di giochi, praticava ai giochi elettronici che man mano entravano nel circuito del gioco d'azzardo legale aliquote fiscali di prelievo sul totale delle giocate in quel settore molto ma molto più basse di quanto capiti invece per la schedina e l'Enalotto, che hanno invece percentuali di prelievo molto alte, perché quelli sono ormai giochi storici. Quindi c'è stata anche una strategia tributaria da parte dello Stato per incentivare, per così dire, molto potentemente. Come se ne esce da questa contraddizione, secondo lei, Sindaco Gori? Io volevo rispondere al primo dei due ascoltatori che ha chiamato. Allora, io non credo che questa faccenda si possa riportare solo alla sfera delle libertà personali, perché anche lì ogni tanto lo Stato interviene per porre un argine al fatto che le persone si facciano del male, e qui è documentato che le persone che si fanno più male attraverso il gioco sono quelle più fragili, più deboli, più povere molto spesso. E poi abbiamo chiaro che non sono solo loro, i giocatori, le vittime di questa situazione, ma molto spesso sono i loro contesti familiari o sociali che ne risentono. È quella cosa che abbiamo chiamato l'azzardo passivo, e che coinvolge la cerchia delle persone più prossime ai giocatori compulsivi, cioè le mogli, i figli, i vicini, i colleghi, sono le relazioni sociali che ne escono in frantumi. Noi abbiamo documentato i genitori che si dimenticano di andare a prendere i figli a scuola perché stanno giocando, oppure li vanno a prendere e li tengono fermi accanto alla macchinetta mentre loro continuano la partita. E così di anziani che non tornano a casa per pranzo, eccetera, eccetera. Quindi l'intervento dei sindaci, ripeto, è poca cosa rispetto all'insieme, e sollecita una responsabilità dello Stato che non può essere surrogata da parte nostra, ma è un tentativo perlomeno di porre un limite ad un danno che chiunque amministri una comunità può osservare. Allora, intanto grazie al sindaco di Bergamo Giorgio Gori, devo dirvi che i pareri sono divisi, ma il più è a sostegno che vedo arrivare da parte degli ascoltatori dei sindaci che intervengono così. Ripeto, io capisco anche chi ha un'impresa nel settore e dice sì, però lo Stato ci faccia capire, perché non può contemporaneamente ogni sei mesi darci segnali così contrapposti. Ci sentiamo tra un minuto. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Eccomi tornato diretto a Scorgionino questa mattinata da solo, senza Alessandro Mina, in sciopero insieme a tutti i colleghi della redazione giornalistica qui di Radio 24, come sono in sciopero i colleghi di Radio Core, l'agenzia del gruppo Sole 24 Ore. Ieri hanno scioperato e non c'è quindi oggi in edicola i colleghi del quotidiano Sole 24 Ore, non lo trovate oggi in edicola. Serie gravi le ragioni, anni di perdite, comportamenti incomprensibili da parte di chi ha amministrato la gestione di questo giornale, perdite addossate agli azionisti retail, non investitori istituzionali a cui fu riservato l'aumento di capitale, un aumento di capitale bruciato per centinaia di milioni in questi anni, con moltissimi punti interrogativi che spetterà alla Procura di Milano e alla Consob chiarire, visto che le risposte non sono venute anno dopo anno da chi ha gestito questa società. È una responsabilità e una perdita di credibilità per Confindustria in primis e i suoi presidenti, non solo per e non tanto e non certo, aggiungo io, per i giornalisti e chi ha tentato di tenere alta la credibilità e la professionalità di questo gruppo, sia al giornale, sia all'agenzia, sia alla radio. La mia piena solidarietà ai colleghi. Io di solito non condivido quasi mai gli scioperi, questa volta li condivido, non posso farlo, ma ogni volta che sto tornando in onda sto ribadendo perché questa le preoccupazioni, le perplessità dei colleghi sono più che motivate. Sui giornali di oggi vi do solo quattro flash, ci sono tanti filoni, per così dire, al di là degli Stati Uniti e di questo consigliere Bannon accusato di essere un razzista, che è una delle nomine di Trump iniziale che ha fatto riavvampare la polemica, ma vi segnalo solo altre questioni. Per esempio, la stampa dà rilievo, quello che dà forse più rilievo, ma lo trovate anche sugli altri giornali, al fatto che sulla vicenda delle firme false dei 5 Stelle per le 2012, le firme da presentare a sostegno della lista per le elezioni comunali di Palermo dei 5 Stelle, il titolo della stampa, mi limito a questo, dice: firme false, la deputata regionale M5 Stelle confessa in guai ai suoi. Claudia La Rocca ammette tutto e coinvolge Claudia Mannino, deputata, e Samantha Busalacchi, aspirante candidata a sindaco. Vedremo gli sviluppi di questo. Invece, il decreto fiscale che doveva essere approvato ieri, secondo filone, non è stato approvato perché alcune misure, emendamenti che hanno goduto dell'approvazione nel testo finito in aula non sono coperti e quindi il dibattito riprende oggi. Ma io vi segnalo solo due questioni che considero scandalose e alzo apposta per urlare e prendere la vostra attenzione. Primo, è stato approvato un emendamento per il quale chiunque ritiri conti dal proprio conto corrente superiore a 1.000 euro al giorno o 5.000 euro mensili scatta automaticamente l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con l'inversione dell'onere della prova, per cui voi e i vostri soldi dovrete voi giustificare di non essere evasori o che ne siano soldi illegali. Io lo considero l'ennesimo tentativo giacobino da inquisizione fiscale, con l'inversione dell'onere della prova poi ancor più una violazione patente dei diritti elementari di libertà e di proprietà. Non c'entra niente tutto questo con la legalità tributaria, dalla quale io sono a favore, ma non poter destar sospetto e scatenare indagini se uno ritira i propri soldi come se fosse un ladro la notte e non i propri soldi sul proprio conto corrente è veramente una cosa inaccettabile. C'è anche questa norma nel decreto, vediamo se passa, ma la seconda è altrettanto discutibile, anche se parliamo di un'altra cosa, e cioè propongono parlamentari del PD a decine e decine, accolgono la proposta del governatore De Luca Campano, che diceva possiamo accrescere l'occupazione pubblica di 200.000 unità nel mezzogiorno, e subito si è manifestato l'emendamento, che è un emendamento che prevede di sforare il tetto che era stato previsto al turnover. Sapete che da anni non si rinnova per ciascuno che va in pensione nel settore pubblico, non si può assumere nel 100%. Per anni è stato proprio bloccato il turnover, questo ha consentito la diminuzione del numero in termini reali, grazie al fatto che i pensionati non venivano sostituiti dei dipendenti pubblici, che restano 3.280.000, e se ci mettiamo dentro tutte le partecipate controllate comunque pubbliche ci dobbiamo aggiungere un altro milione rotti. Ma detto tutto questo, ecco che invece, seguendo la parola d'ordine prima del referendum del governatore della Campania De Luca, 200.000 dipendenti pubblici in più per il sud, una pattuglia di deputati del PD alza il tetto del turnover per l'anno prossimo nel mezzogiorno fino al 50% nel 2016, quindi è retroattivo, al 75% nel 2018 e sotto i 10.000 abitanti addirittura al 100%, dal 25% che era. Mi sembra una norma pazza, non c'è copertura, non è di posti pubblici, credo, che abbia bisogno il Sud. Naturalmente ai giornali del Sud questa cosa piace, è una roba oltre che abbastanza palesemente elettorale, è l'opposto di quello che ci ha insegnato l'evidenza degli studi accumulati su perché il Sud cresce di meno. È stata proprio l'eccesso di intermediazione pubblica ad avere desertificato la possibilità di fare impresa e crescita con meccanismi di mercato. Però questa è la mia opinione, quindi vi segnalo questo altro filone. Poi invece c'è un giornale in particolare, La Verità di Belpietro, che va controcorrente, però secondo me lo fa su una cosa giusta, non tanto per il titolo di apertura, quanto ci costa la campagna del CD Renzi, vabbè questo fa parte della normale amministrazione, ma perché dà molto rilievo a invece una lettera che quattro cardinali hanno mandato al Papa Bergoglio, sollevando dubbi, chiedono una risposta del Papa su: ma come la pensi tu, alla luce di quello che stai dicendo, stiamo entrando in crisi su alcuni punti fondamentali dell'insegnamento della Chiesa, delle encicliche di Papa Giovanni Paolo II, di chi ti ha preceduto, di Papa Ratzinger, su matrimonio e famiglia? Quindi sono chiaramente quattro cardinali conservatori, chiamiamoli così, il cardinale Barnmüller, il cardinale Burke, il cardinale Caffarra e il cardinale Meisner. E questa lettera di quattro cardinali è molto interessante e secondo me meritava più attenzione da parte di altri giornali. C'è anche su La Verità di Belpietro, che vi segnalo, una vegana pentita, dice: quella dieta mi ha rovinato, ho contratto malattie degenerative, non si può vivere bene senza nutrirsi di carne, si chiama Lire Kite, non è un'italiana, ma volevo segnalarvi questi temi intorno, insieme a quello che ho trovato su tutti i giornali, cioè le polemiche sulla dichiarazione del sindaco di Milano ieri, che dopo sparatoria a colpi di pistola a Piazzale Loreto dovuta alla violenza che a Milano è diventata molto preoccupante delle gang latine, ha chiesto più soldati per Milano e la richiesta di Sala determina tutto un filone di analisi e polemiche su molti giornali italiani. Ecco, allora sentiamo ancora rapidissimamente qualche ascoltatore sulla vicenda sindaci e ordinanze di limitazione delle slot. State con i sindaci o state con i tabaccai che fanno gli esposti alla Corte dei Conti? Luca da Milano, Luca, prego. Buongiorno Giannino. Sì. Ma in realtà avevo chiamato appunto per questo problema, poi sentendo anche del prelievo dei contanti, dell'accertamento, vabbè, ci sarebbe da aprire un capitolo anche qui. Lei è perché io se prendo 1.000 euro divento un criminale? No, infatti anch'io ecco. Rimango di stucco e sono concordo pienamente con la sua disamina. Però io mi spiace che non c'è più in collegamento il sindaco di Bergamo, perché io lo volevo vedere da un altro punto di vista, e cioè dei tabaccai, che vabbè è un po' riduttivo dire tabaccai, ma sono dei veri e propri imprenditori. No, certo, rischiano altro che lei ha ragione. Nel senso, io dico, vedendo da questo punto di vista, che queste attività nel 90% dei casi vengono comprate firmando delle cambiali, certo, indebitandosi, perché sono attività che costano dai 500.000 euro a più di 1.000.000 di euro, un'attività del genere. E se appunto un imprenditore ha fatto conto di un certo incasso quando ha deciso di acquistare questa attività e l'indebitamento dura 6-7 anni, si ritrova a volte con degli incassi di dimezzati. E io Luca la ringrazio. Quindi, perché su questo noi dobbiamo tenere conto che la erraticità degli interventi, ripeto, tra quelli nazionali che promettono più videosale specializzate e meno slot, il sindaco che può o non può fare la misura alla Bergamo, cioè restrittiva, sono diverse centinaia però i sindaci che, e le giunte che lo hanno fatto, e ovviamente poi il tabaccaio ne ha un impatto brutalmente diretto sui propri conti di esercizio. Stefano da Pavia, brevemente, Stefano, come la pensa? Sì, buongiorno Giannino, io volevo intervenire dicendo che il problema delle slot, per quello che riguarda poi il problema sanitario, cioè della ludopatia, insomma, penso che sia un po' come a un tossico dargli 10 droghe e dire te ne tiro via solo una, perché poi abbiamo mille altre forme di gioco dove si incappa la gente. Soprattutto se aumentiamo di migliaia le sale specializzate, mi pare molto più ipocrita questa cosa qua. Io infatti su questo critico molto lo Stato, questo devo dire la verità, e la ringrazio quindi di rilevare anche lei questa cosa. Allora, è con noi adesso il sindaco, resta sindaco, ma in realtà si dovrà andare a nuove elezioni in primavera, di Padova, Massimo Bitonci. Perché tre giorni fa, nella sorpresa generale, Massimo Bitonci è un sindaco leghista molto energico, molto sanguigno, le cui spesso l'onore delle cronache per la durezza e chiarezza delle posizioni assunte. Beh, nessuno si aspettava, almeno l'informazione nazionale è scesa dal pero, perché ha preso che la maggioranza dei consiglieri che lo sostenevano, la maggioranza, erano andati dal notaio e avevano firmato le dimissioni, ovviamente in questo poi anche con consiglieri di minoranza, e quindi praticamente facendo decadere la giunta. Andando a vedere l'analisi, ci sono ragioni locali invocate da quelli di Forza Italia. Forza Italia era e commissariata a Padova da tempo, e andando a vedere le dichiarazioni del commissario Simone Furlan, quello dell'esercito di Silvio per intenderci, le accuse rivolte a Massimo Bitonci sono quelle di non aver concordato mai nulla con Forza Italia, aver proceduto a sostituzioni senza previsto, insomma beghe di mancata convergenza per così dire, ma oramai ratificate al punto tale di dire un sindaco che è venuto meno ai suoi impegni, ha perso il contatto anche con le liste civiche. Il sospetto che tutti i quotidiani locali e nazionali hanno immediatamente sollevato è che però fosse una scelta nazionale, fosse per caso o per necessità. Era lo stesso giorno in cui a Padova Stefano Parisi diceva noi non siamo quelli lì, cioè quelli di Piazza Santa Croce a Firenze, dove a Piazza Santa Croce Salvini diceva quello che possiamo rapidamente ascoltare. Se il voto della Brexit ci insegna qualcosa, se il voto americano ci insegna qualcosa, non è più tempo di avere paura, e se voi siete d'accordo, con oggi da Firenze si parte. Con oggi da Firenze si parte per andare a vincere. E io la faccia ce la metto. Non ho tempo da perdere, non ho paura di niente, di nessuno. Ecco, quindi Salvini si candidava, Parisi diceva no, Berlusconi a metà, centrodestra riesplode nelle polemiche su che anima sposare, l'anima populista, l'anima Trump o l'anima popolare e liberale invocata da Parisi. Bitonci, grazie di essere qui, ma chi ha ragione? Buongiorno. La polemica locale che lei è un matto che non concorda, o la polemica nazionale che dice i matti siete voi della Lega come tali più che altro? Beh, guardi Oscar Giannino, direttore, io faccio l'amministratore locale da 23 anni, ho fatto il sindaco 12 anni e mezzo, il vice sindaco 8, ho fatto 5 anni deputato e un anno capogruppo al Senato, in contemporanea anche con il sindaco. Cioè, tirare fuori questioni caratteriali o beghe interne è stata una scusa e un'assurdità ingiustificabile. Non si manda a casa un'amministrazione con un consenso così alto, perché anche il vostro anche la vostra emittente, anche il vostro giornale ha dato conto delle classifiche dei sindaci d'Italia, e io poche settimane fa avevo un 60%, 60,2% di consenso al settimo posto in Italia, statistiche ovviamente che non faccio io ma fanno gli altri. E mandare a casa un sindaco per giochi di palazzo e non per consultazione popolare è una vergogna incredibile. Io ho già detto che mi ricandiderò, il tema nazionale c'è tutto, perché insomma questa raccolta firme durante la notte da un notaio, cercando fino agli ultimi consiglieri, con due consiglieri di Forza Italia che fanno parte di quell'area, non solo rappresentata da questo specie di commissario cittadino, ma da Marco Marin, che è il coordinatore regionale di Forza Italia. Lo stesso commissario alla sera ha dichiarato che aveva avuto l'indicazione, l'ordine di andare avanti su questa strada. È stato un segnale che si è voluto dare alla Lega Nord, al presidente della Liga, perché io sono il presidente della Liga, certo, Veneta, quindi ho anche un ruolo politico. Mi spiace per i padovani, per i cittadini, diciamo che per fortuna che negli ultimi tre mesi, dopo due anni e mezzo, abbiamo mandato in gara e progettazione esecutiva, quindi già finanziate con gara pronta, 60 opere pubbliche di una certa importanza, quindi anche i sei mesi del commissario non bloccheranno l'attività a Padova. Ma però la domanda che le faccio, Bitonci, se si è al punto in cui si regolano le cose, invece che magari anche litigando, ma con un confronto aperto, ma con colpi di mano notturni, beh, non è che uno, l'elettore del centrodestra che non andava più a votare, può essere molto rassicurato dal fatto che i due pezzi del centrodestra si comportino così l'uno verso l'altro, o no? Ma è una ripicca nazionale, è un segnale dato a Padova, però dopo alla fine il voto locale è un voto sulle persone, quindi certo, nulla c'entra, perché io ricordo come le due liste comunque dei partiti, sia la Lega Nord che Forza Italia, non hanno superato il 6% a Padova, mentre la mia lista, che portava il mio cognome, ha superato il 18%. I numeri c'erano. Comunque, noi torneremo nel tempo su queste due anime del centrodestra. Intanto, grazie al sindaco di Padova Bitonci di essere stato con noi. Cari ascoltatori, riflettete: se prendete più di 1.000 euro, è un decreto legge, quindi quello vale, è convertito, siete diventati automaticamente evasori fiscali? Rifletteteci. Intanto, grazie di aver ascoltato qua. Viva i colleghi e le loro ragioni di protesta. Continuate su Radio 24. Io ci sono anche alle 4:30 con la versione di Oscar.